voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Rica Levis, la fabbrica dei jeans biologici, di Andrea Ferro. La storia di oggi inizia tanto tempo fa fra la Francia e l'Italia, più in particolare tra la Costa Azzurra e la provincia di Cuneo. A farla sbocciare fu la vocazione imprenditoriale di due famiglie che incrociarono intraprendenza e voglia di fare, concentrando la loro attenzione su un capo d'abbigliamento destinato a rivoluzionare la moda e le tendenze, il jeans. È la storia dell'azienda e del marchio Rica Levis. A raccontarcela da Fossano è Maria Riorda, direttore marketing e category manager. Nel 1928 a Marsiglia la signora Rica Levi dà vita alla società Rica Levi International. Questa società produceva abbigliamento per i militari, per l'esercito, soprattutto abbigliamento da lavoro, quindi. Piano piano inizia a cercare varie altre reti dove espandersi e la figlia fa un viaggio negli Stati Uniti dove scopre il blue jeans. Tornata quindi, siamo già nel 47, propone alla madre di iniziare la produzione di questi pantaloni e la madre cerca un fornitore. Negli stessi anni mio nonno Francesco Riorda insieme a suo fratello Guglielmo nel 1948 comincia una piccola produzione di tessitura in generale, in realtà che inizia dal cotone e piano piano si espande fino al denim e si trovano proprio in un cortile, un'azienda piccolina, all'epoca neanche un'azienda chiaramente, uno sviluppo artigianale, un laboratorio, e non si sa bene come viene in contatto con questa signora di Marsiglia che chiede il tessuto denim. Da lì inizia il loro rapporto. Da un laboratorio artigianale affacciato su un cortile di provincia a una fabbrica che si espande a ritmi serrati. La storia dell'azienda incrocia quella dello sviluppo dell'Italia sull'onda del boom economico. Un paese che si trasforma, sogna, ha voglia di vivere. L'attività cresce, il prodotto tira, il mercato si allarga, l'orizzonte è limpido. Noi facevamo tessitura all'inizio, quindi negli anni 50, diciamo, tessitura, quindi con dei telai, classica. Piano piano siamo passati al confezionamento, quindi tra gli anni 50 e gli anni 70 si è iniziato a produrre il prodotto finito per terzi, quindi il pantalone, ma senza marchio, che veniva venduto ad aziende con marchi che poi le distribuivano. Ed è in questo momento che iniziamo a produrre il pantalone anche per la signora Rica Levi in Francia. Lei marchia questo pantalone blue jeans con il marchio Rica Levis, che è quello che ci contraddistingue ancora oggi. E diciamo che l'azienda era nata appunto in questo cortile con i telai e poi si espande fino ad avere 2000 dipendenti negli anni 80 e con una struttura molto più industriale e i macchinari moderni all'avanguardia per l'epoca. Nel 1987 per la famiglia Riorda c'è una svolta ulteriore che segnerà i decenni a venire nonostante varie incertezze e periodi difficili, come ci dice ancora Maria Riorda, direttore marketing e category manager. La signora Rica Levi decide che si è stufata, ormai ha una certa età e vuole vendere la sua azienda, e qua proprio che mio nonno e suo fratello decidono di acquisire il marchio e iniziare a donare un po' all'azienda l'impronta internazionale, comunque italo-francese soprattutto, che abbiamo ancora ad oggi. Da lì poi passiamo, questo nell'87, da lì poi eravamo già passati un po' in una piccola crisi negli anni 70, chiaramente con la crisi del petrolio eccetera, fino a la crisi successiva degli anni 2000, diciamo fino agli anni 90, e poi piano piano ci siamo ripresi, adesso abbiamo ristrutturato l'azienda e continuiamo ancora oggi, siamo ancora qua, quindi dopo tutto questi vicissitudini che sono successe, siamo ancora su, quindi diciamo che siamo abbastanza orgogliosi. La produzione ruota attorno al jeans, declinato in vari modi. È un capo irrinunciabile nei guardaroba di tutto il mondo, che Rika Levis offre soprattutto nel circuito della grande distribuzione. Più recentemente, l'azienda è tornata, a suo modo, alle origini primordiali dell'attività, entrando nel mercato dell'abbigliamento da lavoro, un settore in grande espansione. Abbigliamento jeans, soprattutto abbigliamento e jeans, ma soprattutto jeans da uomo. Facciamo anche la donna, piano adesso stiamo ampliando, abbiamo altri marchi. Noi ci rivolgiamo soprattutto alla grande distribuzione in questo momento, quindi per esempio non faccio nomi, ma qualsiasi ipermercato che ci può venire in mente che ha una linea delle corsie con dell'abbigliamento, bene o male li forniamo. Negli ultimi anni abbiamo iniziato una sorta di cambiamento con l'ingresso della terza generazione, che sono io, ma poi arriveranno probabilmente anche i miei cugini e mia sorella. È iniziato una fase di rinnovamento, ma anche un po' un ritorno alle origini, perché come le dicevo, quando la signora di Marsiglia ha iniziato la sua azienda, produceva abbigliamento da lavoro. Il jeans in più è l'abbigliamento da lavoro per eccellenza, e negli Stati Uniti era nato per quello, e di conseguenza noi abbiamo deciso di creare una linea che pensiamo adesso possa essere molto interessante per il mercato, ma è comunque legata alla nostra storia, che è quella dell'abbigliamento da lavoro, che chiamiamo Rika Levis Workwear. È un settore molto interessante, per ora siamo contenti di come sta andando in realtà sopra le aspettative questo progetto, che è nato nel 2018, quindi sono solo 2 anni, ma diciamo che siamo già pienamente presenti sul territorio nazionale, abbiamo diversi venditori su tutto il territorio che cercano di ovviamente portare il nostro prodotto un po' ovunque, e creiamo dei prodotti che possono essere, sono funzionali e secondo noi piacciono, perché sono adatti al lavoro, ma allo stesso tempo, vista la nostra storia di produttori di abbigliamento civile, da persone normali che vanno in giro, ha comunque uno stile per cui poi può essere utilizzato in maniera versatile, quindi un pantalone magari tasconato che comunque ha tutte le caratteristiche di protezione che servono per un qualsiasi lavoratore, può essere poi tenuto su per andarsi a prendere una birra dopo il lavoro, perché comunque lo stile casual è non troppo tecnico, non troppo aggressivo, diciamo, come possono essere alcuni nostri competitor, glielo permette. Un'azienda con solide radici nel proprio territorio, la provincia di Cuneo, è agganciata ai valori della famiglia che ne hanno ispirato lo sviluppo durante tutte le stagioni. Una famiglia, come sottolinea Maria Riorda, direttore marketing e category manager, che però ha sempre saputo allargare lo sguardo e le esperienze al di là degli schemi e del recinto di casa. Siamo sempre stati molto aperti a collaboratori esterni, quindi il valore c'è anche solo per una trasmissione di competenze, di conoscenze acquisite che comunque avviene da una generazione all'altra, però allo stesso tempo le generazioni nuove, si spera, portano novità e cose nuove che vengono apprese durante gli studi magari un po' più aggiornati, però allo stesso tempo ci appoggiamo sempre a consulenti, a persone che possono essere utili nel nostro sviluppo, cioè non perché siamo un'azienda di famiglia ci chiudiamo nella nostra famiglia, ecco. Noi pensiamo comunque che la qualità paghi, e su questo sappiamo di essere bravi, sappiamo di avere ancora un approccio legato all'industria, quindi sappiamo come vengono prodotti i nostri prodotti fin nel minimo dettaglio, e riusciamo a essere anche competitivi sui prezzi nonostante mantenendo una qualità elevata. Rika Levis oggi produce 2 milioni di jeans all'anno, con 4 marchi offerti in 2500 punti vendita. I dipendenti sono un centinaio, il fatturato sfiora i 20 milioni. L'azienda guarda al presente e soprattutto al futuro, con un occhio particolare rivolto alla sostenibilità dei materiali e dei suoi processi produttivi. È un tratto distintivo che in realtà portiamo avanti da molto tempo, anche prima che fosse di moda, diciamo. Nel 2006 per esempio avevamo già fatto una linea di pantaloni fair trade, Da lì poi abbiamo pensato di investire sempre di più nella responsabilità sociale d'impresa e ci siamo dati tre pilastri che guidassero tutte le nostre attività: il rispetto per le persone e la società a tutti i livelli, agire in maniera responsabile per la salvaguardia del pianeta e ottenere un ritorno etico sui nostri investimenti. Questi sono tre punti chiave che guidano veramente più o meno tutte le nostre scelte. E legato a questo, da adesso, diciamo dal 2019, stiamo lanciando una produzione sostanziale, diciamo, sulla maggior parte dei nostri prodotti con cotone biologico. Nel 2019 eravamo un 15% quando abbiamo iniziato per fare i primi test a livello di volumi. Adesso siamo già al 60% a livello ufficiale, ma probabilmente anche un po' di più. Il nostro obiettivo è arrivare nel 2022 ad avere il 95% della nostra produzione fatta con cotone biologico. Non solo, nel senso che oltre al cotone biologico stiamo facendo tutto un lavoro sui nostri packaging, facendo molta attenzione al fatto che siano riciclati e riciclabili. Fino adesso ci stiamo riuscendo perché tutto il nostro packaging è al 100% riciclato e riciclabile. Per noi è veramente qualcosa di importante perché non è solo qualcosa di bello da dire, ma davvero crediamo che possa essere un beneficio per i nostri consumatori e in generale per il mondo alla fine dei fatti. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.